un padre, un padrino, un patrono. Tu non sei nulla, un padrino, un patrono. Tu non sei nulla, un padrino. L'associazione mutilati orfani di guerra, cioè i terziari francescani, l'associazione mutilati orfani di guerra. Tu ti devi convertire.